Focus Economia di Sebastiano Barisoni. :17 inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana, puntata particolare, lo dico subito, non faremo, vista la giornata, cioè tra le 3:40 di notte di stamattina in realtà, e poi quello che è accaduto a Stoccolma verso le 2 di pomeriggio, non faremo la puntata sulla classifica, la rinvio la prossima settimana, e quindi anche la startup. Daremo degli aggiornamenti alle 17:25, 17:30, come stiamo facendo dalle 15, anche ogni mezz'ora sulla situazione sia a Stoccolma che eventuali altre reazioni sul fronte internazionale, soprattutto oltre che locale in Siria. E poi alle 18 ripercorreremo la giornata, diciamo dalla notte fino al pomeriggio, la giornata tra Siria appunto e Stoccolma, per quello che riguarda gli sviluppi anche a Stoccolma dell'inchiesta, la polizia ha fermato un sospettato, e per quello che riguarda invece il fronte a questo punto soprattutto delle relazioni internazionali dopo l'attacco missilistico americano alla base aerea siriana. Avremo invece, come anticipato, l'intervista a breve con Fabrizio Viola, che è nuovo da poco, nuovo numero uno della Popolare di Vicenza, con cui parleremo della situazione delle due banche, perché in realtà Viola è indicato anche come l'uomo che dovrà unire Veneto Banca con Popolare di Vicenza, e ancora e ha un ruolo anche in Veneto Banca, ma soprattutto anche per capire quando dovranno arrivare i soldi pubblici. La cifra oscilla tra i 5 e i 6 miliardi e mezzo, e che obiettivo ha l'azione intrapresa, di cui abbiamo parlato anche ieri, cioè la richiesta di danni per 1 miliardo di euro complessivamente. In realtà la richiesta è un po' più alta, 1,5 miliardi a Zonin, agli ex vertici della Popolare di Vicenza, per quello che riguarda appunto l'accusa, tira in ballo 32 ex rappresentanti dei vertici dell'istituto per danni stimati sia economici che reputazionali. Sarà interessante anche capire con Viola, visto che è stato fino a poco tempo fa numero uno nel Monte dei Paschi di Siena, se ha trovato una situazione peggiore a Siena o peggiore a Vicenza. È una bella gara, però insomma gli chiederemo anche questo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, visto che parlavamo della giornata e me drammatica sia sul fronte siriano che poi invece sull'attacco terroristico ormai definito come tale da tutti a partire dal premier svedese. Dicevo, sulle reazioni dei mercati si concentrano i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore. Vi dico che adesso i mercati sono più non tranquilli, ma insomma più attendisti rispetto alle preoccupazioni di questa mattina. Milano è invariata, Parigi invariata, Francoforte perde lo 0,20, Londra più 0,50, euro su dollaro 1,06, ST Microelectronics più 2,5, Case New Holland più 1,70, Mediobanca più 1,20, Azimut più 1,1, come A2A, Mediolanum più 0,70, invece Mediaset meno 2, Saipem meno 1,80, Campari meno 1,5, Ferragamo meno 1,20, come Fiat Chrysler, Ubibanca meno 1, come Yux Net-a-Porter e Banco BPM. Avremo anche la notizia, devo dire, non so più come commentare gli aumenti del prezzo della benzina sotto i ponti pasquali, penso che siano delle costanti di questo programma da quando abbiamo iniziato. Comunque commenteremo anche quella, ma visto che parlavamo dei mercati e delle reazioni dei mercati al bombardamento in Siria, su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore, trasmessi anche su RDS, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Paterotti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. con Alessandro Plateroti. Camion contro la folla nel centro di Stoccolma. Almeno due morti. Il premier, attacco terroristico. Ci risiamo. Ogni volta che la comunità internazionale sembra raccogliersi intorno a un tema di interesse comune, ovvero il terrorismo, c'è qualcosa che fa saltare gli equilibri e fa saltare, purtroppo, anche le bombe. Probabilmente l'attacco di Trump, l'attacco degli Stati Uniti contro la Siria, la ritorsione per l'attacco con le armi chimiche contro le popolazioni, potrebbe essere la base di questo nuovo attentato, ma il problema è un altro. Si continua a fare politica estera secondo gli interessi nazionali, secondo gli interessi particolaristi. Lo stesso attacco degli Stati Uniti contro la Siria lascia un po' perplessi, visto che lanciare 59 missili Tomahawk, che costano più di 15 milioni di dollari ciascuno, contro una base militare, in particolare una pista, non sembra dare né una risposta militare né politica a una tensione che ormai da anni circonda quell'area del mondo. In realtà sembra un po' una scelta ad uso e consumo degli Stati Uniti, cioè far vedere che la Casa Bianca e il presidente Trump non ha nessuna sudditanza né timore di confrontarsi con la Russia. Ma quanto è produttiva questa politica? L'Europa da una parte, gli Stati Uniti dall'altra, la Russia per conto suo, come sempre, e la variabile indipendente che si chiama Cina. Il disordine mondiale continua, purtroppo, sulla pelle della gente, è tutto, mentre l'economia dà ancora segni di stanchezza più che di ripresa. Il mondo ha bisogno di una cabina di regia che pensi alla gente, che pensi al lavoro e che pensi soprattutto a dare un po' di equilibrio a una crescita mondiale che è soltanto, probabilmente, una crescita delle diseguaglianze. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, arriveremo anche all'operazione americana. Dunque, per quello che riguarda l'effetto militare, beh, insomma, da più parti si inizia a dire, già da questa mattina devo dire, che è molto probabile, ormai lo si dà quasi per certo, che gli Stati Uniti abbiano avvisato i russi per evitare appunto vittime nei consiglieri militari russi molto presenti nella parte controllata da Assad. Questo, stando a quello che si sta capendo, avrebbe anche ridotto l'impatto e l'effetto sorpresa, chiaramente, detto in una banalità. I russi hanno poi avvisato i siriani, quindi addirittura, come avete sentito nei nostri aggiornamenti, l'ipotesi che molti aerei fossero stati spostati. Questo andrebbe nella direzione di un atto che più per la sua efficacia militare doveva avere un'efficacia di carattere politico, dare un segnale politico a livello internazionale che Trump non è così isolazionista come sembra, cioè non è solo interessato alla parte interna degli Stati Uniti, è anche, ed è più interventista, ben più interventista del suo predecessore Obama. Andiamo sulle altre notizie, poi arriveremo agli aggiornamenti. Creati 98.000 posti di lavoro negli Stati Uniti, la disoccupazione scende al 4,5%, però il dato è peggiore delle attese degli analisti, che si attendevano 100.000 posti in più creati. Per quello che riguarda il tasso di disoccupazione, però, è ai minimi dal 2007. La produzione industriale invece in Gran Bretagna in calo dello 0,7%. Per quello che riguarda i dati europei, oggi il surplus commerciale tedesco continua a salire, al di là dei richiami, degli appelli. Abbiamo spiegato moltissime volte che Maastricht prevede che un paese non possa avere un deficit troppo alto e riscattano le sanzioni, ma chiede anche, senza sanzioni, che un paese non possa avere un avanzo commerciale troppo alto, cioè che debba investire, non possa tenere tutti i soldi in cassa. La Germania continua ad avere un avanzo commerciale oltre ogni livello consentito, si ritiene che il 6% sia il livello massimo, è arrivata al 9%. Nel bilancio commerciale tedesco a febbraio il surplus è salito più del previsto a 21 miliardi di euro, con le attese a 18 miliardi di euro. Nel frattempo, sempre dalla Germania, veniamo a sapere che Deutsche Bank ha chiuso con successo l'aumento di capitale da 8 miliardi, adesione al 98,9%, e in questo modo sale anche il coefficiente patrimoniale di Deutsche Bank. Andiamo avanti con l'Italia invece. Dunque, qualcuno mi dice, lei sta dicendo che non si deve reagire all'uccisione di civili con gas nel vino. Non ho mai detto questo. Non è, ho detto semplicemente che dal punto di vista militare, da quello che capiamo, l'attacco, essendo stato preannunciato ai russi, c'è l'alta possibilità che questa informazione sia stata girata ai siriani e che questo abbia portato a spostare parte degli aeromobili, e che quindi l'effetto principale di questo attacco, da quello che abbiamo capito, è stato un effetto politico forte, oltre che militare, ma in primo luogo politico, di dire attenzione, io interverrò, come ragionamento di Trump, non avrò una politica isolazionista, come si chiama in gergo, cioè che si occuperà solo degli affari interni degli Stati Uniti, che ritengono come affari interni anche l'intero continente americano storicamente, ma interverrò in maniera anche più significativa di quanto fatto da Obama. Obama, come ormai abbiamo spiegato in tutti i modi, minacciò un intervento quando vi fu già un'uccisione anche di un maggior numero di civili, oltre un migliaio, con gas nel vino nel 2013, poi lo sospese. Quindi l'atto è in primo luogo un atto politico, questo stavamo dicendo. Sull'efficacia militare stiamo cercando di valutare, ma c'è il rischio che sia stata minore del previsto, avendo avvisato i russi. D'altra parte, questo ha permesso di non avere, da quello che capiamo, non avere vittime tra i consiglieri militari russi, che avrebbe complicato ulteriormente la situazione già molto tesa a livello internazionale. Allora, andiamo avanti con l'Italia. Dicevo, per quello che riguarda il commercio, a febbraio c'è un calo dello 0,3% sul mese, dell'1% sull'anno. Pesano gli alimentari, in sofferenza grandi e piccoli negozi, a dimostrazione che insomma sta ripartendo l'economia sulla produzione industriale, sugli ordinativi in parte, ma sui consumi siamo molto molto distanti da una situazione di normalizzazione, anche perché calano anche in volume i beni alimentari. E questa volta sia i negozi della grande distribuzione che le piccole superfici mostrano andamenti molto simili, con flessioni dell'1% rispetto a un anno prima. Nel frattempo alle 18 ci sarà il punto al Ministero dello Sviluppo Economico per quello che riguarda l'Italia. Il confronto parte dal tema del taglio ai salari, ma diciamo è anche dal fatto che i sindacati siano contrari al piano proposto dall'azienda. Il ministro Delrio ha detto che stamattina ho incontrato Montezemolo e Gubitosi per discutere su come il piano industriale debba essere un po' più coraggioso nel rilancio. Abbiamo discusso su come rafforzare gli investimenti, perché è chiaro che è un piano importante che consente all'Italia di vivere, ma poi bisogna anche vincere la sfida. Una notizia che riguarda anche i tassisti, ma non solo. Il Tribunale di Roma ha ordinato il blocco entro 10 giorni dei servizi offerti dal gruppo Uber in Italia con l'app Uber Black, ossia le berline nere con autista attive a Milano e a Roma, e le analoghe app Uber Lux, Uber SUV, Uber X, Uber XL, Uber Selected, Uber Van. È stato accolto infatti un ricorso per concorrenza sleale delle associazioni di categoria di tassisti, e quindi entro 10 giorni deve bloccare questi servizi. Chiudiamo prima di partire con l'aggiornamento sulle vicende internazionali con una buona notizia. Abbiamo raccontato in questi mesi, penso ad alcuni casi, la Trinità dei Monti, il Colosseo a Roma, ma i più recenti giardini di Boboli a Firenze, del nuovo mecenatismo fatto da grandi gruppi. Chiaramente è anche un motivo di immagine, ma l'importante è che questo poi si traduca in un'operazione concreta di restauro e miglioramento delle opere. Allora, perché lo dico? Perché prima di passare a notizie ben più pesanti, vorrei ricordare come oggi sia stato annunciato a Venezia dalla Venice Gardens Foundation, delle Assicurazioni Generali, il restauro dei Giardini Reali di Venezia, presentato oggi all'interno del Padiglione Santi. I progetti di restauro si concluderanno a metà del 2018, dove i 5.500 metri di parco saranno riaperti al pubblico. Sarà gestita l'operazione dalla Venice Gardens Foundation Onlus, con un accordo con le assicurazioni generali. Allora, la nostra Silva Menetto ha raggiunto da un lato Adele Re Rebaudengo, che è presidente della Venice Gardens Foundation, e dall'altro anche il partner del progetto, e mi riferisco al numero uno delle assicurazioni generali, Philippe Donet. Ascoltiamoli perché spiegano l'obiettivo di questo restauro e anche l'importanza del restauro. Apriremo finalmente di nuovo i giardini restaurati. Abbiamo con noi un partner che sono assicurazioni generali. Bene, la fondazione ha sede a Venezia. Bene, noi volevamo fare un progetto tutto italiano e questo lo diciamo con grande orgoglio. Tant'è che prima del generali, non faccio il nome, ma un grosso gruppo francese ci aveva chiesto di partecipare all'operazione restauro. La fondazione ha detto no, perché prima vogliamo provare a fare veramente un progetto italiano, e ce l'abbiamo fatta. Un progetto così importante, 19 anni di concessione, è poco? È poco, è il massimo però della concessione che il demanio può dare direttamente, credo anche nello stesso periodo che cui viene gestita la Fondazione Cini, credo, ma nel lato di concessione abbiamo sottolineato, evidenziato rinnovabili, quindi noi auspichiamo che ci possa essere un rinnovo per molti e molti 19 anni, anche perché noi ci teniamo moltissimo non solo all'aspetto del restauro, ma soprattutto all'aspetto della manutenzione e della conservazione di questi giardini. È un modo molto efficace di incentivare gli interventi privati per i beni culturali, e in questo paese che ha un patrimonio storico, culturale, artistico più importante del mondo, senza questi interventi privati è difficile mantenere questo patrimonio. Allora, buona la notizia, e devo dire è una delle poche oggi, non tanto sul fronte economico-finanziario quanto sul fronte politico di sicurezza del terrorismo. Allora andiamo a ripercorrere la giornata. Parto volutamente dal nostro Alessio Maurizi, che sta seguendo da quando abbiamo avuto notizia l'attacco terroristico, perché così definito anche dal premier svedese. Dove però Alessio fin dai primi minuti, e continua il balletto, devo dire macabro, per carità, cinico, sul numero di morti, è stato abbastanza sorprendente. Si era parlato prima di 3 feriti, poi di 3 morti, poi di 5 morti, poi di 2 morti, a dimostrazione che c'è ancora, mettiamola così, un po' di confusione da parte dell'autorità svedese. Alessio. Temo di sì. Allora, le ultime notizie sono queste: 3 le vittime di questo camion che ha travolto la folla nel centro di Stoccolma, 8 i feriti. Questo è quello che dice la polizia svedese pochi minuti fa. In precedenza la confusione è stata generata forse da un giornalista sul posto che aveva parlato di 5 vittime, quindi una fonte diretta, ma poi smentita dalla polizia. La polizia, che poco fa ha anche smentito un'altra notizia: nessuno è stato arrestato per questo attentato, come invece aveva detto il premier svedese Löfven, che aveva parlato di un arresto. Premier svedese che invece ha apertamente parlato di un attacco terroristico. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza nei pressi della zona, tra l'altro sono stati uditi anche degli spari, l'area è stata evacuata, il Parlamento svedese chiuso, evacuata anche la stazione centrale. I particolari di questa attentato sono abbastanza chiari a questo punto. L'autista del camion piombato sulla folla indossava un passamontagna, così dicono i testimoni. Media svedesi parlano di un dirottamento, un sequestro del camion che poi è stato utilizzato. Di lì anche la notizia di un fermo che si era diffusa inizialmente, un fermo, forse il camionista stesso che è stato sequestrato, ma a questo punto non è chiaro invece se sia confermata questa notizia. Erano le 15 quando il camion è piombato in una strada, la strada pedonale più famosa della città, Drottninggatan, si è lanciato prima contro la folla in strada e poi contro un grande magazzino dove ha finito la sua corsa, si è fermato lì. un attacco a uno dei nostri stati membri, è un attacco a tutti, ha detto il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, esprimendo così un po' il cordoglio, le condoglianze, la solidarietà di tutta Europa nei confronti della Svezia. Al momento direi che non ci sono molte altre notizie su questo attentato. Ripeto, 3 le vittime, 8 i feriti, al momento le ultime notizie della polizia svedese. E allora ricordo a tutti gli ascoltatori che poi avremo dalle 18.05 dopo il GR uno speciale che ripercorrerà in primis in questo caso quanto è accaduto dalle 3.40 di questa mattina fino ad oggi, quindi fronte siriano, ma anche tutti gli sviluppi di Stoccolma, un venerdì insomma. Diciamo così, molto delicato ed intenso. Passo adesso a Sergio Nava che metà giornata sta conducendo gli aggiornamenti. Questa mattina, come immagino alcuni di voi sappiano, già abbiamo smontato il palinsesto e ringrazio tutti i colleghi della mattinata per il lavoro egregio svolto. Sergio Nava, da questo punto di vista, e invece il fronte siriano, chiamiamolo così, riguarda ancora molto le reazioni e relazioni di carattere politico e diplomatico, quindi geopolitico. Poi ti chiederò anche un approfondimento sull'efficacia militare, perché iniziano ad esserci un po' di polemiche. Il fatto che i siriani che i russi fossero stati avvisati potrebbe aver ridotto l'efficacia del lanci dei 59 missili Tomahawk. Partiamo però dal fronte diplomatico. Allora, dal fronte diplomatico, oggi, come dicevi Sebastiano, è soprattutto la giornata delle reazioni e si sta indurendo lo scontro tra Stati Uniti e Russia, perché su Facebook il premier russo Dmitry Medvedev ha scritto: attaccando una base aerea siriana, gli Stati Uniti sono arrivati a un passo dallo scontro con la Russia, e ha aggiunto: al posto della reiterata tesi su una lotta comune contro il nemico principale, cioè l'ISIS, l'amministrazione Trump ha dimostrato che condurrà una battaglia accanita contro il legittimo governo della Siria. A questo si aggiungono le voci diffuse poco fa da Fox News che una nave da guerra russa sarebbe entrata nel Mediterraneo e starebbe andando verso i cacciatorpedinieri americani da cui sono partiti i lanci di Tomahawk, dei 59 famosi missili Tomahawk. Bisogna anche dire che qualche ora fa si era diffusa notizia che la fregata ammiraglio Grigorovich della flotta di Mosca si stava spostando, come previsto, dal Mar Nero verso la base navale siriana di Tartus. Quindi bisogna anche capire se in queste ore così concitate forse non si sta enfatizzando troppo. Senso che poteva essere un movimento, diciamo, frutto di operazioni tattiche. Certo è che insomma, dai, se anche fosse stato pianificato, adesso diventa certo. Il fronte russo statunitense è quello più delicato in questo momento. Vorrei capire che reazioni ci sono, se ci sono novità invece da Assad, quindi da Damasco, e il resto, diciamo, dei paesi NATO. Allora, Assad nel primo pomeriggio ha tuonato contro Washington, ha definito l'attacco un comportamento spericolato e irresponsabile, un attacco... Aspetta che ti interrompo, perché così richiamo anche Alessio e Maurizi. Danno adesso una notizia da Stoccolma: l'autista del camion sarebbe stato individuato ed è in fuga. Adesso magari poi daremo altri aggiornamenti. Sì, sicuramente mi riferisco a Stoccolma, chiaramente. Per cui qualcuno mi sta già polemizzando: continuate a dire che l'Islam non c'entra, non abbiamo detto nulla. Guardi, vedremo. Ci sono ottime possibilità che l'autista del camion sia islamico. Del resto, insomma, è ancora fresco il ricordo, ahimè, dell'attacco a Westminster, ed è chiaro che su questo si stanno muovendo anche gli inquirenti. Il camion è stato rubato e adesso le autorità svedesi stanno ricercando l'autista, per cui immagino che scatterà la cosiddetta caccia all'uomo, su cui ci aggiornerà nelle prossime edizioni e dalle 18 in poi Alessio Maurizi. Sergio, ti ho interrotto. Sì, dicevamo appunto della reazione di Assad, del dittatore siriano Assad. Aveva definito il comportamento di Washington spericolato e irresponsabile, un attacco dettato dalla cecità politica e militare, mentre bisogna dire che contro gli Stati Uniti si sono di fatto schierati solo Russia e Iran, mentre tutta l'Europa, la NATO e anche la Turchia, insieme a Israele, Giappone, Arabia Saudita, si sono schierati a favore dell'intervento americano. Poco fa anche la reazione del segretario generale ONU Guterres, che chiede una soluzione politica contro l'escalation. Allora, anche con te, grazie Sergio, ci risentiamo alle 18.05, meteo, pubblicità, poi avremo Fabrizio Viola, il ministro legato della Popolare di Vicenza ed ex Monte dei Paschi, nostro ospite. Conferma chi me lo chiede, oggi la giornata è un po' concitata, chiedo venia se ho saltato la notizia che ci sono ancora ritocchi a rialzo sulla rete dei carburanti italiani in occasione dei vari ponti. Pasqua, 25 e 1 maggio, hanno iniziato la Total Erg, benzina e diesel su di un centesimo, vedremo se seguiranno anche le altre, anche Kuwait, vedremo se seguiranno anche le altre compagnie petrolifere, secondo questa tradizione che le accise, che la benzina aumenta quando ci sono gli esodi. Andiamo sul meteo, va là. Tempo in diretta. Previsioni a cura di Trebi Meteo. Una buona serata e un ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trebi Meteo a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Fine settimana in compagnia dell'anticiclone su tutta la nostra penisola. Tra sabato, domenica e lunedì avremo difatti ampio soleggiamento non solo al nord Italia ma anche tutte le regioni del centro-sud. Temperature tipicamente primaverili, gradevoli, perché domenica su molte località di Lazio, Toscana e gran parte del nord Italia raggiungeremo diffusamente i 22-24 gradi, ma non sono escluse anche punte fino a 25 gradi al nord-ovest. Ventilazione per lo più debole, con mari in prevalenza quasi calmi o al più poco mossi. Con questo per il meteo è tutto, aggiornamenti come sempre scaricando l'app di trebimeteo.com. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Minuti, allora in attesa degli ultimi aggiornamenti che daremo dopo le 18, la borsa l'ho già data, oggi veramente le variazioni sono abbastanza poco significative. ST Microelectronics più 2,20, più 2,50 nel finale, CNH più 2,20, A2A più 1,60, Mediobanca più 1,20, Azimut più 1, fronte opposto Saipem meno 2, Mediaset meno 1,80, Ubibanca meno 1,30 come Campari, migliori peggiori FOP più 21, Italia Online più 17, Risanamento più 10, RCS Media Group più 7,60, peggiori Banca Pharma Factoring meno 11,90, Gala meno 10, Industria e Innovazione meno 7,70%. Allora andiamo alla notizia della settimana che ha riguardato Popolare di Vicenza e Veneto Banca, e come dicevo ne parliamo, torniamo a occuparci della situazione delle banche venete e soprattutto delle loro prospettive, ma anche della causa di risarcitoria da oltre un miliardo avanzata verso i vecchi vertici della Popolare di Vicenza. Parliamo sì di Popolare di Vicenza, perché abbiamo coperto la notizia nei giorni scorsi, riguardava sia Popolare di Vicenza che Veneto Banca. La notizia buona che la Banca Centrale Europea ha ritenuto le due banche solvibili, e quindi c'è un livello ancora buono di solvibilità, e quindi non scatterà la richiesta di bail-in, e invece potranno, sul modello diciamo così del Monte dei Paschi, essere utilizzati i soldi statali per ricapitalizzare le due banche, che nel frattempo non vivono una situazione facile, nel senso che dopo che il Fondo Atlante le ha comprate di fatto alla quasi totalità, versando 2 miliardi e mezzo complessivamente, questi soldi, come abbiamo ricordato, in parte sono stati, larga parte, già bruciati. Veneto Banca chiuso l'anno con un rosso di 1 miliardo e mezzo, Popolare di Vicenza con un rosso di 1 miliardo e 900 milioni. La cosa che più diciamo preoccupa però è l'andamento, cioè la raccolta presso la clientela si è ridotta del 18% in Veneto Banca e del 14% nella Popolare di Vicenza. E poi le prospettive, la fusione da più parti richiesta, e poi anche invece l'azione, nel caso specifico qui parliamo della Popolare di Vicenza, risarcitoria nei confronti dei vecchi vertici, nel senso una maxi sanzione, tra l'altro è stato richiesto 1 miliardo di euro di danni a Zonin e agli ex vertici, sono 32 persone in tutto, ex collegio sindacale, consiglio di amministrazione e quant'altro. Questa è una vicenda che ha già fatto molti danni, perché ha bruciato 11 miliardi di risparmi in un'area che va da Vicenza a Treviso, come frutto del crollo del valore dei titoli in primo luogo. Sappiamo che lì l'accusa è anche di aver offerto finanziamenti a soggetti purché comprassero il titolo e lo tenessero alto, oppure l'offerta dei finanziamenti solo se compravi il titolo, se compravi anche il titolo collocato nel caso della provvicenza a 62,50 euro fino all'estate del 2014. I vertici di allora, Zonin, Sorato, dicevano che tutto andava bene, ma dava la Marchesa. A primavera 2015 il valore si riduce a 48 euro, a inizio 2016 viene fissato a 6,30 euro, nell'aprile 2016 viene fissato a 10 centesimi, cioè in due anni va da 62 euro acquisto a 10 centesimi, senza che nella stragrande maggioranza dei casi, tranne alcuni pochi fortunati su cui si indaga, si potesse vendere l'azione, magari non a 62 euro, a 50 euro, a 40 euro. Tanto quando il titolo non è quotato, questo è il problema, non trovi mai un compratore. E infatti si andava allo sportello e non si riusciva a vendere. Situazione analoga anche in Veneto Banca. Ripeto, questo ha portato alle dimissioni dei vertici, anche del vecchio vertice. Adesso infatti ne parliamo con chi da poco ricopre la carica di amministratore delegato della Popolare di Vicenza, ex amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena, Fabrizio Viola. Buonasera. Buonasera a tutti. Lei è anche la guida strategica di Veneto Banca? Sì, sono presidente del comitato strategico. E questo già dice lunga sul fatto che le due banche diventeranno una cosa sola? Ma l'obiettivo è quello di procedere a una fusione tra le due banche, che a detta dei due consigli di amministrazione e mia è l'unica soluzione oggi per garantire a queste due banche un futuro sostenibile. Della fusione abbiamo parlato a lungo con le autorità e quindi questa richiesta di capitale pubblico per ricapitalizzare le banche dovrebbe servire anche per rendere possibile la fusione da un punto di vista finanziario. Allora andiamo sempre su questo aspetto, perché voi avete tirato un sospiro di sollievo, voi e devo dire anche soprattutto i correntisti, gli obbligazionisti subordinati delle banche, quando la BCE ha detto va bene, il livello di solvibilità è ancora accettabile, non siete da bail-in. E la BCE però ha anche calcolato che dovete raccogliere complessivamente 6,4 miliardi di euro, una cifra superiore ai 5 miliardi di cui si vociferava. Questi 6 miliardi e mezzo saranno tutti pubblici? Allora, innanzitutto i 6 miliardi e mezzo sono un calcolo che definisce quanto è il massimo che lo Stato può erogare come capitale, ma non credo che non sarà quello che poi alla fine verrà stabilito. Ancora non è stato definito dalle autorità, ma è una cifra che a mio avviso non è del tutto indicativa di quello che sarà poi la reale capitalizzazione. Lei le dice ancora indicativa, però più o meno sui 6 miliardi e mezzo. Sì, 6 miliardi e mezzo è lo shortfall, il disavanzo di capitale che è stato stimato dalla BCE che deve essere coperto, però torno a dire non è detto che sia l'ultimo numero. E visto che sono soldi nostri, Viola, nel senso che sono soldi pubblici, secondo lei lì che cosa succederà? Cioè, c'è una vaga speranza di poterli restituire, oppure si manterrà un azionariato pubblico dentro le due banche? No, l'obiettivo è assolutamente quello di creare le condizioni che su un orizzonte temporale visibile, parlo di 3-5 anni, si creino le condizioni per una restituzione di questo capitale. Per far questo ovviamente c'è bisogno che il progetto di fusione dia vita a una banca più solida rispetto a quelle che sono state, alla solidità che hanno dimostrato le due banche singole, più efficiente e quindi in grado di rimettersi a offrire prodotti e servizi alla clientela in modo adeguato. Quindi c'è da fare un enorme lavoro all'interno della nuova banca. Viola, per curiosità mia, ma lei ha trovato una situazione peggiore al Monte dei Paschi quando è arrivato dopo Mussari o a Veneto Banca quando è arrivato dopo Iorio e soprattutto Zonin Sorato? Francamente l'ho trovata peggiore nel Veneto rispetto alla situazione del Monte Paschi della fine del 2011, e la differenza sostanziale è che fa riferimento al danno reputazionale che tutto quello che abbiamo, diciamo, evidenziato anche nell'azione di responsabilità ha portato per le banche. Quindi ci siamo trovati tutti a fronteggiare non solo una carenza di capitale e anche di liquidità, ma soprattutto una carenza reputazionale fortissima. Cioè, quindi, con tutto quello che abbiamo parlato di Monte dei Paschi, con tutto quello che è successo e quant'altro, lei dice la situazione è, anche dal punto di vista reputazionale, ho capito bene, come danno, è stata peggiore alla Popolare di Vicenza che al Monte dei Paschi? Ma non c'è neanche da confrontarla. Al Monte dei Paschi i danni reputazionali, anche la precedente gestione, non mi risulta che ne abbia fatte, a parte l'andamento molto negativo del titolo, ma certamente non c'è traccia delle cose che sono state fatte a Vicenza e a Montebelluno. Ci dà qualche esempio, insomma, che abbiamo raccontato, azioni pompate, crediti dati per comprare azioni, mutui e prestiti dati solo se si comprava un'azione. Prego? No, esattamente, quello che lei sta dicendo, queste fattispecie che lei sta enunciando, Non le ho trovate all'interno del Monte dei Paschi. Vediamo se ho capito bene. Al Monte dei Paschi erano Mussari, Baldassari, secondo l'accusa, insomma, fare operazioni finanziarie rischiosissime, c'è anche l'accusa del 5% della tangentina per alcuni di questi, rischiosissime, però, diciamo, su grande scala, che hanno distrutto patrimonio della banca. Penso a Santorini come fondo, come strumento, e anche ad Alexandria. Però lei dice, nei confronti della clientela l'attività era più normale, mentre nelle banche venete il danno è stato, la cosa assurda è stata anche il rapporto con la clientela, cioè l'aver fregato risparmiatori vendendogli il titolo a 62 euro dicendo che la banca era solida, o a 42 nel caso della 40 euro nel caso di Veneto Banca, invitandoli a comprare titoli sapendo che non erano liquidi. Cioè, questo intende? Guardi, più sul retail? Assolutamente sì, guardi, per dirle in una battuta, a Siena nessuno ha messo mai, anche i precedenti diciamo gestori, nessuno ha messo le mani in tasca ai clienti, e quando i clienti sono usciti, perché ci sono stati dei mesi in cui ci sono state delle fughe molto importanti dei depositi, l'hanno fatto per paura ma non per arrabbiatura. Quindi possiamo dire meglio Mussari di Zonin? Dal punto di vista del rapporto con i clienti direi di sì. Sì, certo, è una dura lotta, però insomma è importante, adesso al di là delle battute, quello che lei ci sta dicendo. Resti con noi, Viola, perché ho il GR chiaramente con tutti gli aggiornamenti tra Siria e Stoccolma. E poi avremo anche gli aggiornamenti, uno speciale dopo le 18, però vorrei concludere l'intervista con lei per capire adesso, insomma, che cosa succederà e come fermerete anche questa emorragia di dei correntisti nella raccolta. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. GR. Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta domenica, ore 14:30. Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Minuti. Adesso, prima di arrivare ai nuovi aggiornamenti tra appunto Siria e Stoccolma, vorrei continuare, anzi concludere l'intervista con il numero uno di Popolare di Vicenza, ex numero uno del Monte dei Paschi di Siena, Fabrizio Viola, il quale, ricordo chi si fosse appena messo in collegamento, alla mia domanda, insomma, se ha trovato una situazione peggiore a Vicenza rispetto a Siena, ha detto senza dubbio peggiore a Vicenza come danno, e alla battuta, insomma, peggio Zonino Mussari, peggio Zonin. Senta, Viola, voi avete chiesto risarcimenti per oltre 1 miliardo di euro, 1 miliardo e mezzo quasi, a 32 ex vertici dell'istituto. tra cui ovviamente Gianni Zonin, Sorato, ma anche l'intero Consiglio di Amministrazione, ex Consiglio di Amministrazione, la Direzione Generale, i sindaci e quant'altro. Vista l'entità del danno e anche della vostra richiesta, mi sembra di capire che voi ritenete che non vi fosse solo un problema legato ai vertici Zonin Sorato, con Zonin che dice che eseguiva tutto Sorato, ma insomma, ma un problema di un sistema che coinvolgeva i vari organismi della banca nell'accusa di malagestio. Ma guardi, è molto semplice. Le fattispecie che abbiamo individuato e che sono oggetto dell'azione di responsabilità sono prevalentemente relative a operazioni che sono passate in consiglio di amministrazione e sono state deliberate dal massimo organo amministrativo della banca. Ma perché, se gli ex vertici hanno creato danni per almeno 2 miliardi, avete chiesto 1 miliardo solo? No, in realtà la somma del danno attuale è 1,8 miliardi. Dopodiché stiamo rivedendo alcune cose, però al momento la somma complessiva dovrebbe essere intorno al 1,7 miliardi, 1,8 miliardi. Però è una cifra che poi sarà evidentemente riaggiornata in corso di causa. Senta, Viola, ma è vero che avete trovato tutte le mail di questi soggetti, Zonin, Sorato e altri, cancellate dal server della banca e non conservate incredibilmente nel sistema di backup, roba che anche qui a Radio 24, se mi si cancella una mail, la riescono a recuperare nel backup, con un vuoto di quasi un anno? Ma questo chiama in causa anche Iorio? Allora, guardi, quanto me l'hanno detto, devo dire che ho avuto una sorpresa che forse è superiore alla sua, perché francamente in una banca le mail sono come l'archivio, e quindi questa cosa a mio avviso è di grande gravità. La cosa è stata fatta prima dell'arrivo di Iorio, quindi non... No, è importante chiarirlo questo. No, non mi sento di attribuire alcuna responsabilità. No, ma è importante. Ancora due domande, Viola, venendo al futuro, se così possiamo dire, insomma, è chiaro che insomma, vedere che hanno cancellato, oddio, io non so poi come andrà in tribunale. Certo che già questo elemento, il fatto che dal server vengano cancellate tutte le mail dei soggetti interessati e non ci sia il backup, io non so come ragionano i giudici, ma a casa mia diventa un elemento indiziario non da poco, perché se io non ho niente da nascondere, anzi le tengo le mail, tengo il backup, le faccio vedere per dimostrare, come dice Zonin, che lui nulla sapeva, che decideva tutto Sorato, oppure come dirà Sorato che forse decideva tutto Zonin, non lo so, ma le tengo, perché se io sono pulito le mail le tengo, pulito vuol dire che se ho avuto comportamenti corretti, perché diventano un elemento di difesa una volta che si va al dibattimento, no? Per cui insomma, mi sembra che sia già un elemento abbastanza indiziario su questo fronte. Però siccome il problema vostro e della vostra sorella, di cui diventerete, immagino, stringerete legami ancora più stretti, Veneto Banca è il problema della raccolta in questo momento, cioè la clientela che dopo essere stata fregata, come ricordava lei, non semplicemente impaurita, ma fregata direttamente, se n'è andata. Come pensate di porre un rimedio all'emorragia della raccolta? Guardi, per risponderle occorre fare un minimo di resoconto di quello che è successo nel corso del 2016. Nel 2016 c'è stato il calo dei depositi che lei ha individuato, che ha indicato, che si è protratto fino a subito dopo l'estate. Dopodiché la situazione si è stabilizzata, quindi mi lasci dire che nell'ultima parte dell'anno la temperatura era scesa in modo consistente. Dopodiché i rumors sul rischio bail-in ha riacceso la preoccupazione e cosa che ha determinato soprattutto nei depositi detenuti dalle imprese una nuova fuoriuscita. Mi lasci dire che la clientela retail, probabilmente consapevole del fatto che fino a 100.000 euro si è coperti dal fondo tutela e garanzia, ha reagito in modo abbastanza composto. Va da sé che adesso, per avviare un processo di recupero significativo della raccolta, che è uno dei pilastri del piano, perché senza raccolta una banca non può funzionare, sarà fondamentale che si arrivi in tempi brevi a risolvere il problema del capitale. In altre parole, a ottenere dalle autorità competenti la ricapitalizzazione pubblica. Che quando è che punto... devono arrivare questi 6 miliardi e mezzo di soldi pubblici, Viola? Entro che data, secondo lei? Ribadisco che non so, non credo che saranno 6 e mezzo. Quindi, vabbè, diciamo, detto tutto ciò, diciamo detto 5 tutto ciò, come immaginavate? Non lo so. Comunque, detto tutto ciò, l'auspicio che prima del entro il 30 giugno, comunque entro l'estate massimo, si abbia la certezza dell'operazione, che quindi si possa velocemente implementare l'operazione di fusione, ma soprattutto riprendere a dialogare con i clienti, che sono il nostro più importante patrimonio, con l'obiettivo di diciamo convincerli nuovamente che la nuova banca è tornata a essere una banca solida, che è affidabile sotto il profilo del deposito del risparmio. Io la ringrazio, perché devo dire che lei è sempre molto chiaro, diretto e trasparente. Mi dica solo una cosa, ma le brucia ancora il modo in cui è stato allontanato dal Monte dei Paschi da quella telefonata di Padoan su richiesta di Renzi? Ma come ho avuto modo di dire n volte, non mi brucia, guarda avanti, e credo che debba essere fatto da tutti. Va bene. Allora, in bocca al lupo non solo a lei, ma anche per curiosità, lei ci può dire il suo compenso? Perché c'è stata un po' di polemica anche sui compensi, non suo, del suo predecessore Iorio, un po' alti. E allora si è detto, beh, se entrerà il denaro pubblico, vediamo di capire anche quale deve essere il compenso di un manager. No, io ho un rapporto di collaborazione, quindi non sono dipendente della banca, e il mio compenso annuo è di 700.000 euro. Beh, quindi meno anche di quello di Iorio, sicuramente meno della buona uscita che si sono presi Zonin e Sorato. Sì, tenga conto che, scusi, una piccola precisazione, questa formula consente alla banca di risparmiare contributi e tante altre cose. È quasi una parità IVA lei? Sì. No, vabbè, siamo di livello, ma è una parità IVA. Vabbè. Senta, in bocca al lupo a lei, ai dipendenti soprattutto e ai correntisti di Popolare di Vicenza, in prospettiva anche di Veneto Banca, che già hanno sofferto moltissimo la famosa penetrazione della banca, delle banche popolari sul territorio, ha penetrato in quelle gestioni i correntisti più che il territorio. Grazie di nuovo a Fabrizio Viola, amministratore delegato a Popolare di Vicenza e alla guida strategica di Veneto Banca. Grazie, buonasera a tutti. Adesso riapriamo l'aggiornamento con i fatti, diciamo, della notte in Siria e del pomeriggio, poco prima delle 3 di pomeriggio in Svezia. Con noi di nuovo chiaramente Alessio Maurizio per la parte che riguarda Stoccolma e l'attentato a Stoccolma, e poi invece Sergio Nava per le reazioni per quello che riguarda la Siria. Un minuto di pazienza ancora, ho il traffico. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta Focus Economia. Alessio Maurizi, la situazione a Stoccolma, e poi arriviamo alle reazioni politiche, soprattutto a questo punto internazionali, sull'attacco missilistico statunitense. Eccoci Alessio. Qua, allora ripercorriamo quello che è successo e quello che si sa. A questo punto, un camion sequestrato, lanciato sulla folla nella centralissima Drottninggatan di Stoccolma, la via pedonale dello shopping. 3 morti e 8 feriti, il bilancio a questo punto. La polizia poco fa però ha detto non siamo ancora in grado di dire quante siano le persone coinvolte. Segno che c'è ancora molta confusione, una situazione convulsa in Svezia, a Stoccolma in questo momento. Un attacco terroristico invece è stato chiaramente affermato dal primo ministro svedese Löfven. Nessun arresto, questa è un'altra smentita. C'è solo l'autista legittimo del camion a cui l'attentatore o gli attentatori lo hanno sottratto, che in questo momento, in questi minuti, viene sentito dalla polizia. Come è andata? Il camion è stato rubato poco prima dell'attacco, appartiene alla Spendrups, è una popolare marca di birra svedese, è stato rubato durante il classico giro di consegne nei ristoranti della città. I responsabili dell'azienda hanno parlato al telefono con l'autista legittimo, che ora è nelle mani della polizia, il quale ha riferito che mentre stava scaricando la merce qualcuno alle sue spalle è saltato dentro il camion ed è scappato. L'autista è illeso, sotto shock, e appunto viene ascoltato dalla polizia. L'attentatore indossava un passamontagna, riferiscono i testimoni, però purtroppo di lui si sono perse le tracce. Ovviamente in questo momento è scattata in Svezia una prevedibile caccia all'uomo. La dinamica di quello che è successo: erano quasi le 15, un venerdì pomeriggio di shopping per gli svedesi in centro città. Un camion è spuntato dal nulla e abbiamo cominciato a correre, hanno riferito poi alcuni testimoni. Il veicolo quindi è stato lanciato prima contro la folla in strada e poi ha sfondato le vetrate di un grande magazzino dove ha terminato la sua corsa. Il luogo dove tutto questo è accaduto: siamo in una strada centralissima, forse la più famosa di Stoccolma, come racconta una testimone che abbiamo intervistato. L'ha intervistata Adriano Palazzolo, lei è Anna Maria Corazza Bildt, è una europarlamentare svedese ma di origini italiane. Sentiamo. Lei considera come se questo fosse avvenuto a Via Condotti a Roma, cioè in un venerdì pomeriggio, quando veramente c'era tanta gente lì, quindi veramente poteva andare anche molto peggio, cioè hanno scelto un momento di grande traffico di persone, anche perché è una strada pedonale quella. E quella strada comincia dove c'è invece una grande strada dove è facile arrivare con un camion. Il camion è stato rubato. E la città, devo dire che io in giro per la città, devo dire, ho incontrato le persone tipo proprio un'ora fa. Al momento grande shock e confusione, anche perché non funzionavano i telefoni, quindi non si riusciva a sapere, sai, tutti chiamano subito i propri cari. Adesso però devo dire è tutto assolutamente calmissimo, e comunque hanno chiuso tutto il centro, hanno detto, la polizia ha chiesto alle persone di stare a casa. Tra l'altro lì in quello stesso punto, in quella stessa strada, nel 2013 c'era stato un altro tentato, quella volta attentato terrorista con una macchina suicida, che però non ha avuto nessuna vittima, quindi lo stesso posto di grandissimo traffico. E allora il centro chiuso, diceva Anna Maria Corazza Bildt, tra l'altro sono stati sentiti anche degli spari in altre zone della città. L'area è stata poi evacuata, il Parlamento svedese, l'abbiamo già detto, è stato chiuso, è stata evacuata anche la stazione centrale. Il primo ministro svedese, lo ricordiamo, ha parlato di attacco terroristico. Quali potrebbero essere le conseguenze in un paese fino ad oggi accogliente come la Svezia, ma che ha al suo interno comunque un dibattito anche sulla presenza di immigrati e di origine islamica? È inutile girarci intorno. Sentiamo brevemente ancora la parlamentare svedese. E qui in Svezia i commenti che senti, anche se guardi Twitter così, o comunque quello che ho detto io, è che la Svezia è un paese tollerante, una società aperta, come si dice in inglese, open society, e continuerà ad esserlo, se no vincono i terroristi. Su questo penso ci sia una grande, dopo lo shock, anche una grande fermezza. Sicuramente l'estrema destra proverà a sfruttare la situazione per stigmatizzare i migranti e chiedere di chiudere le frontiere, ma non avrà molta presa questo messaggio. Allora, grazie intanto ad Alessio Maurizi. Sergio Nava, qui ci spostiamo completamente di fronte, anche se insomma il tema, ahimè, è simile, e mi riferisco a quanto accaduto alle 3.40 di questa notte: i 59 missili Tomahawk lanciati da due cacciatorpediniere statunitensi verso la base siriana, dove si ritiene siano decollati gli aerei che hanno scaricato il gas, vediamo se sarin o nervino, ancora non ci sono notizie precise su questo. Le reazioni sono a questo punto di carattere internazionale dopo la dura presa di posizione di Mosca della mattinata. Sì, assolutamente sì. Tra l'altro è proprio in corso in questi minuti il dibattito al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e vi possiamo già dire che la Bolivia ha preso la parola contro gli Stati Uniti, perché ha detto occorre rispettare il multilateralismo e la carta dell'ONU, e la Gran Bretagna invece ha detto questo è stato un avvertimento ad Assad che il suo tempo sta per scadere. Noi però ripartiamo dall'inizio, cioè dall'annuncio di Trump arrivato nella notte sull'attacco. No child of God should ever suffer such horror. Tonight I ordered a targeted military. Ecco, sentite Trump dire: ho ordinato un attacco mirato contro la base aerea in Siria, da dove l'attacco chimico è stato lanciato. Dobbiamo prevenire la diffusione e l'uso di armi chimiche. Così il presidente americano Trump. il mondo, diciamo pure, si è spaccato. La maggior parte dei paesi hanno appoggiato la scelta americana, scelta di Donald Trump, però ovviamente questo ha portato a un'escalation di tensioni con la Russia. Tra l'altro, poco fa l'agenzia Tartas ha confermato che c'è una fregata della flotta del Mar Nero che sta andando verso la base siriana di Tartus, un chiaro segnale, come dire, insomma, attenzione a non esagerare. Sì, bisogna capire, perché da quello che si capisce poteva essere già previsto uno spostamento all'interno di operazioni navali tattiche dal Mar Nero verso il Mediterraneo. È chiaro che adesso diventa... Il fatto che la stessa Intertas lo pubblichi su Twitter è, come dire, un messaggio in codice, calmatevi e non andate oltre, potremmo dire. Sentiamo a questo proposito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Именно президент Трамп Peskov, che dice: il passo di Washington arreca un danno notevole ai rapporti russo-americani, che si trovano già adesso in uno stato deplorevole. E su Facebook il premier Dmitry Medvedev scrive: gli Stati Uniti sono arrivati a un passo dallo scontro con la Russia, quindi tensioni si stanno acuendo. Anche l'Iran ha condannato certo. Un ultimo aspetto però, Sergio, riguarda l'efficacia militare, cioè questo è il fronte, diciamo, delle reazioni internazionali. Sembra confermato il fatto che gli Stati Uniti, all'interno di una così realpolitik, al di là di dichiarazioni formali, abbiano avvisato prima i russi dell'attacco imminente, in modo da permettere l'evacuazione dei consiglieri militari russi che sono molto presenti in Siria, nella parte siriana, diciamo, controllata da Assad, e che questo abbia in qualche modo ridotto l'efficacia dell'attacco? Sì, a quanto dice la CNN, citando fonti ovviamente militari, l'avvertimento sarebbe arrivato un'ora prima, quindi avrebbe effettivamente consentito l'evacuazione. Tra l'altro, anche sull'efficacia di questo attacco, fonti vicine al regime siriano parlano di 20, poco più di 20 missili arrivati a destinazione. Chiaramente siamo poi nella guerra della propaganda. Qui però vorrei citare a questo proposito il leader repubblicano al Senato, Mitch McConnell, che ha detto: questo attacco è semplicemente stato un messaggio di non usare più armi chimiche. Mitch McConnell, che lascia intendere in qualche modo l'amministrazione americana qui si fermerebbe dopo o comunque non ha volutamente evitato. Da quello che abbiamo letto, c'erano tre opzioni che il Pentagono aveva sottoposto a Trump, ha volutamente scelto l'opzione più, passatemi il termine, anche se mi rendo conto che quando parliamo di 59 Tomahawk potrebbe essere fraintesa, l'opzione più leggera rispetto alle altre, a partire dall'intervento dei caccia americani. Lì c'era anche il rischio poi di attivare i sistemi di difesa. Quelli siriani, l'S-200, sono abbastanza vecchiotti, ma i russi hanno fornito l'S-300 e l'S-400, che invece funzionano un po' meglio. E soprattutto, come tu ricordavi, l'idea che il messaggio fosse in primo luogo politico e in secondo luogo, secondariamente, di carattere militare. Abbiamo infine, Sergio, qualche elemento per capire quando finirà il vertice straordinario dell'ONU? No, è in corso, è iniziato alle 5:30 e almeno quanto ci riportano le cronache, siamo ancora abbastanza agli interventi iniziali. Abbiamo citato Bolivia e Gran Bretagna, soprattutto anche perché sono contrapposte, però chiaro che qui siamo nell'ambito di una discussione in cui si intrecceranno le diverse visioni, parlerà ovviamente anche il rappresentante russo, e quindi si rifletterà di fatto la spaccatura che abbiamo visto. Ricordiamo anche una cosa, non abbiamo detto che ovviamente NATO ed Europa sono assolutamente schierate a difesa di questo attacco americano, questo non l'abbiamo detto, quindi una spaccatura all'interno anche della comunità internazionale, anche se a maggioranza il sostegno a Trump è stato evidente. Allora, grazie, poi vi sarà il tempo anche per l'analisi che già vedo affiorare da più parti sul cambio di rotta rispetto alle attese della politica di Trump, da molti ritenuta, a mio avviso anche giustamente, più isolazionista, quindi più intesa a preservare sicurezza degli Stati Uniti ed eventualmente del continente americano, ma non, diciamo così, interventista all'estero. In realtà questo primo attacco statunitense alla Siria, la prima mossa militare di Trump, denota, non so se un cambio di rotta, ma sicuramente un'azione molto più interventista di quanto qualunque osservatore potesse attendersi, anche più di Barack Obama. Come ricordavamo, Barack Obama arrivò vicino nel 2013 dopo un episodio analogo, 1000 morti con l'accusa di utilizzo dei gas, ma poi si bloccò. Grazie anche a Sergio Nava, e ritroveremo sia Alessio Maurizi che Sergio Nava nel corso dei nostri GR. La puntata di Focus Economia, obiettivamente particolare, poco ortodossa, termina qui. Un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione e in studio. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, soprattutto, e di un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà passare lavorando. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.